questa idea di rendere un po' più cool l'idea europea. Così è nato un brand europeo, P-Lux è il nome, per trasformare appunto in qualcosa di comunicabile, per esempio attraverso delle magliette, l'Europa. Ci parla di questo bel progetto Catherine Tonero dal Belgio. Ciao Catherine. Buongiorno. Buongiorno a te, tu sei belga, sei giornalista, sei una collega credo, se ho capito bene. Sono giornalista belga, anche amica di questi due ragazzi che si chiamano Charlie e Gauthier. Che hanno lanciato questo progetto. Ecco, il progetto è proprio questo, no? Rendere cool l'Europa. Esattamente, con la maglietta che presentano con la prima marca, brand di t-shirt parlando dell'Europa agli europei. Ma forse posso parlarvi prima di questi due ragazzi che conosco bene. Grazie. Che sì, sono due francesi, ci sono incontrati in Erasmus in Repubblica Ceca. Dopo alcuni anni ci sono ritrovati qui in Bruxelles, dove hanno deciso di stare, dove hanno lavorato nelle istituzioni europee, hanno anche viaggiato un sacco in tutta l'Europa e così viaggiando che ci sono reso conto che il concetto di Europa forse si capisce meglio dai genti vivendo fuori dall'Europa che dai genti stessi, gli europei stessi, per esempio gli americani, sudamericani, australiani, anche asiatici. Ci vedono come un insieme di paesi sul continente, però noi abbiamo un po' difficile con questo concetto, sappiamo tutti che l'Europa manca un po' di identità clara, sì. E nell'Erasmus e incontrando degli europei che Charlie e Gauthier hanno capito, come dire, il valore di essere europeo. Ecco, quindi è nato questo marchio P-Lux, che significa cosa? Sì, P-Lux si chiama, sì, Plux è il nome infatti di questa piazza in Bruxelles, vicino il Parlamento europeo e dove si incontrano tutti gli eurocrati. Allora, ci sono detto proprio che se l'Europa manca di identità, anche manca di simboli, c'è la bandiera, un inno, però nessuno lo conosce, anche l'euro, però questa è un'altra storia, e ci sono detto abbiamo bisogno di qualcosa di più parlando e visibile, e qui arriva la maglietta che presentano dunque come la prima marca di t-shirt parlando dell'Europa. L'avete detto, ci sono alcuni modelli, per esempio il primo l'hanno chiamato non europei, è una serie di magliette con alcune facce conosciute dell'Europa. L'ambizione qui è di fare un giorno che la faccia di Robert Schuman, per esempio, diventa un simbolo conosciuto come immaginiamo Che Guevara. C'è anche i modelli European College. Sì. E il punto qui è di dire che conosciamo le università americane come Columbia, Harvard, anche perché esistono dappertutto nel mondo queste magliette con il nome dell'università. Allora, perché non abbiamo lo stesso per gli europei? Dunque hanno creato questo modello con i trattati europei, per esempio Maastricht 1992 o Roma 1957, nello stesso style dei collegi americani, e il risultato è proprio bello, si vede sul loro sito. Ci vuoi dare il link del sito? Ce l'hai sotto mano? Sì. Allora, fr. Sì? ulule.com/plux. Perfetto, lo mettiamo subito. E anche sulla pagina Facebook Plus Lux. Benissimo. La piazza del Luxemburgo. Lo condividiamo subito anche nei nostri profili Twitter e Facebook. Grazie davvero Catherine e buon lavoro, in bocca al lupo per questa bella avventura. Ciao e buon sabato. Grazie. Europost-it. Un premio per gli appassionati di tutto. Si chiama Premio Europeo delle Passioni ed è un concorso a cui possono partecipare tutte le persone che coltivano, condividono e promuovono una passione, sia essa un hobby o un mestiere. La disciplina o il settore di interesse non fanno alcuna differenza. Se la vostra passione è il vostro hobby, questo premio fa per voi. Ma anche se la vostra passione è il vostro lavoro, questo premio fa per voi. Non volete partecipare, ma semplicemente segnalare qualcuno che da anni passa le sue notti a coltivare la propria passione? Mandate una mail e potrete vincere anche voi. Maggiori informazioni su lasecondaluna.it. It's the passion for science which is important. as a scientist you can have many ideas, but you always need money to really do it. In 5 years' time, I'll be a lot further on than I am now. The nice thing about the grant is that it offers new opportunities, and it made me decide to apply and therefore come to Europe. Beh, in una puntata dove parliamo della fiducia nei confronti dell'Europa, non possiamo non parlare delle tante opportunità che l'Europa offre. Lo facciamo con questo video che state ascoltando, una celebrazione del millesimo progetto finanziato dall'ERC, il Consiglio Europeo delle Ricerche, che proprio in questi giorni compie 5 anni, e per celebrare l'appuntamento c'è una sorta di festa. Il 25 e 26 giugno si incontreranno a Roma i vincitori di progetti ERC di nazionalità italiana o che stanno realizzando il loro progetto presso un'istituzione italiana. Si parla di tantissimi progetti, si parla di milioni di euro messi a disposizione per giovani ricercatori. Per capire meglio cosa significa essere finanziati dall'ERC, sono 2700 i ricercatori eccellenti finanziati, giusto per darvi un nome, un numero. Abbiamo invitato Marco Dorigo, che è docente di Computer Science e direttore di ricerca del Fondo Nazionale della Ricerca Scientifica in Belgio. Buongiorno Dorigo. Buongiorno a tutti. E Grazina Eva Ptak, dottore di ricerca in biologia. Ciao Grazina Eva. Pronto? Ah, ecco che è caduta, ma adesso la recuperiamo al volo. E Dorigo, per chi non è un addetto al lavoro, qual è la descrizione migliore, più efficace dell'ERC? Che cos'è? L'European Research Council è un organismo che è stato creato circa 5 anni fa per affiancare la Commissione Europea nel finanziare la ricerca di punta in Europa. È qualcosa che mancava in Europa, che esiste in America da anni, che è stato molto molto utile. E 255 ricercatori italiani vincitori di una borsa ERC, si parla di ricerca di eccellenza. Quando è che una ricerca raggiunge punti di eccellenza? Beh, diciamo che i criteri che vengono utilizzati dall'ERC, dall'European Research Council, per decidere se una ricerca sia di eccellenza o no, sono quelli tipici della comunità scientifica. Cioè vengono sottoposte delle domande di progetto che vengono valutate da dei pari, quindi da altri ricercatori, altri scienziati scelti nello stesso dominio di ricerca in giro per il mondo, che leggono tutte le varie proposte e poi valutano e decidono quali sono le più meritevoli. Ecco, molte volte torno ai non addetti ai lavori, la ricerca viene abbinata al problema dei finanziamenti. Ecco, per un ricercatore un finanziamento cosa significa? La possibilità di lavorare serenamente, la possibilità di lavorare in primis, ma credo anche la possibilità di lavorare serenamente e liberamente? No, il finanziamento significa avere la possibilità di avere dei collaboratori e avere degli strumenti per poter lavorare. Nel mio settore, io ad esempio ho come attività principale quella della robotica collettiva, e quindi il finanziamento è fondamentale per poter avere la possibilità di acquistare robot o costruire robot, spazi per farli funzionare, computer per farli funzionare e studenti di dottorato e postdoc per scrivere programmi e implementare le idee che sviluppiamo. E la dimensione europea come entra nei vostri progetti? Voi vi interfacciate, i vostri team sono team internazionali, avete la possibilità di lavorare e portare avanti i vostri progetti nelle varie nazioni dell'Unione? Ci sono adesso l'European Research Council finanzia dei progetti che sono legati alla persona, quindi non è necessariamente un team europeo quello che ne risulta. Sì. Mentre tanti altri progetti della Commissione Europea chiedono una dimensione multinazionale, quindi per definizione partecipano molte equip di paesi diversi. Io nel mio gruppo, comunque, compone di una trentina di persone, direi che ci sono rappresentate una quindicina di nazionalità diverse, e quindi la ricerca in Europa è direi necessariamente multinazionale. Stiamo parlando del compleanno dell'ERC, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il 25 e 26 giugno si incontreranno a Roma tutti i ricercatori italiani finanziati da questo progetto o che lavorano in strutture italiane, una 2 giorni organizzata dall'APRE, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, in collaborazione con il CNR, il MIUR, l'ERC e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Con noi Marco Dorigo, e ci ha raggiunto anche Gravina Eva Ptak, polacca, vive in Italia da 15 anni, lavora presso l'Università di Teramo. Buongiorno Gravina. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere qua con noi. Dorigo, stavo leggendo un po' di appunti, mi hanno sintetizzato la vostra ricerca in una frase che è assolutamente semplice, ma che è quindi in perfetta sintonia col vostro lavoro. Voi studiate l'organizzazione di sistemi semplici per risolvere problemi complicati. È un tweet praticamente, ma funziona per fotografare la vostra attività? Pronto Dorigo? Eccolo. Sì, dicevo, descrivo abbastanza bene. In realtà studiamo come risolvere problemi complicati utilizzando molti agenti relativamente semplici che cooperano fra di loro. E vi ispirate anche alle api e alle formiche? Sì, questo diciamo che come esempio di sistema composto da molti elementi che sono relativamente semplici rispetto ai problemi che risolvono, gli insetti sociali, quindi le api, le formiche, i termiti, sono un esempio molto di successo, nel senso che funzionano molto bene in natura, e quindi cerchiamo di capire che cosa possiamo imparare da loro per riprodurre comportamenti simili, ma in un contesto artificiale dove risolviamo dei problemi che abbiano una qualche rilevanza pratica. Gravina, tu invece di cosa ti occupi? Io invece sono una embriologa e mi occupo di studi sulla placenta. Praticamente lo scopo del progetto è di verificare quali sono le cause a livello molecolare delle patologie della gravidanza, compreso anche le gravidanze che sono fatte con ausilio della riproduzione assistita, cioè queste che sono state fatte come diciamo in provetta. È questo che facciamo. Usiamo il modello ovino, ovviamente non usiamo per questi studi, non si possono fare sulle persone, perciò la pecora è un miglior modello per la gravidanza umana. Ecco, per te e per il tuo gruppo di lavoro, il finanziamento ERC che impatto ha avuto? Ma per me personalmente, infatti come diceva il mio collega, ho sentito prima che sono finanziamenti ad personam, quindi questa possibilità enorme, perché si sceglie una persona o le persone che i reviewers ritengono che sono in grado di coordinare, di formare e coordinare un gruppo di ricerca. Questo è molto importante perché questo ci dà tanta libertà, insomma, di coordinare questo progetto, sia per quanto riguarda il personale. Io personalmente ho chiamato le persone anche da lontano, anche da Stati Uniti, e quindi nel mio gruppo di ricerca ci sono i postdoc, ci sono i dottorandi che sono abbastanza internazionali. Ma cos'altro? Altro ovviamente la gestione di laboratorio, formazione prima di tutto di laboratorio. Questa è stata fatta una grande scommessa, per noi è uscita benissimo, quindi sono molto contenta. Ovviamente tutte queste cose per un normale ricercatore